Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Alessà, c'è te serve? In pratica, ci te serve una bella lapide in pietra. Avvisami, che siccome fazzi muretta a sec, ci te serve. Ciao funamboli, per me siete favolosi, tutti e tre. A quelli dei funamboli, ve lo dico fraternamente, fatevi curare, fatevi curare. Grazie cari ascoltatori, soprattutto l'ultimo, direi che è un appello che Veronica Gentili ha già preso in considerazione tempo fa. Non mi sottraggo. Allora, buongiorno, siamo qui, sono le 9-8 minuti, siamo ritornati anche oggi. Salutiamo la signora che ci dà delle persone straordinarie, credo di aver capito così. Grazie signora, grazie. Veramente cara. Poi grazie, il bonifico grazie. Le arriva più tardi, sì. Oggi volete... dovrebbe essere attivo per lunedì prossimo. Si ci dia l'IBAN però. Allora. Se volete far parte di queste siglette, come fate? Dovreste mandare un SMS o un messaggio WhatsApp. Ancora sto SMS. Anche... l'audio, come fai a mandare un SMS? Ma anche gli SMS allo stesso numero. Guarda, veramente... ma l'audio, come fai a mandare un audio via SMS? Ma io penso già agli SMS che leggo io qui, lasciami perdere. Comunque il numero resta quello, al di là delle diatribe, sì. 349-238-6666. Oh, così mandate i vostri audio, i vostri saluti, i vostri apprezzamenti, le vostre critiche. MDP. No, Ale, ma io immagino che tu comunque stanotte non abbia potuto prendere sonno. Per questa spaccatura a sinistra. Io so che tu eri comunque abbastanza inquieto per ciò che concerne l'unità del centro-sinistra. Invece guarda che sono cose che ieri quando mi ha chiamato un'amica ha detto: sai che c'è stata la spaccatura di... è stato stupendo, è un sonno conciliante per tutta la notte. Ma io credo che sia perché tu vuoi lavorare con la tua parte onirica per trovare una soluzione per la sinistra. No, è proprio che mi annoia banalmente no, questo tipo di... questo è un concetto che non ci avevi mai fatto capire, però devo questo dire tipo che di dibattito, ce l'hai esternato così. No, ma possiamo chiedere agli ascoltatori se trovano pace o meno per questa, certo, per questa divisione della sinistra. Sì, allora cosa ne pensate della divisione della sinistra? Scherziamo, no, della divisione della sinistra. Cosa volete dire a Fassino oggi per dargli un abbraccio, per fargli sentire che gli volete bene? Lui che ha detto il matrimonio non si può fare se lo si vuole da una parte sola. Questa cosa non vi ha nemmeno un pochino toccato il cuore, l'animo? Sì, forse vi siete svegliati questa mattina a dire: andrò a lavorare o non andrò a lavorare? Dopo o questa... posso andare ad aiutare Fassino? Allora, per chi volesse aiutare Fassino, potete mandare un SMS allo 0202 e tutti i soldi verranno immediatamente girati a... No, non dirlo, che tra l'altro quello è quasi il numero di telefono del Comune di Milano. Poi la gente chiama il Comune di Milano dicendo: volevo versare una somma, un obolo per Piero Fassino. Se invece volete mandare qualcosa nell'ambito della rubrica Averò che te serve, 349-238-6666, oppure chiamateci allo 800 24 00 24, perché Veronica è sempre pronta qui ad accettare. E questo è importante. E vi dirò di più: non è detto che non sia poi io a dare qualche cosa a Fassino in prima persona. Benissimo, allora alle 9:11 siamo qui, oggi abbiamo tanti funamboli che si succederanno, anche perché dicono tre funamboli straordinari, a parte che c'è tutta la redazione, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi e poi Peter Bescapè in regia, Alessandro Chiappini lì in regia a Roma. Bello, bello. E poi i funamboli qui siete voi, anche voi italiani, cioè non è che siamo solo noi, Veronica, siamo tutti. Lo sanno bene, credo, lo sanno tutti stamattina mentre stanno camminando sulla fune per cercare di arrivare, chi ha il posto di lavoro, chi a portare i figli a scuola, mentre noi in disequilibrio respirando, come ci ha insegnato il nostro vero funambolo, ecco, cioè siamo un mondo di funamboli, quindi noi non facciamo che una così... triste rappresentanza. Siamo perché triste? Negli scranni radiofonici. No, nel senso, non era triste la parola, era una scarna rappresentanza. Scarna. Allora, però, noi vogliamo partire da un racconto che ci riporta un po' nel passato. La prima funambola che è già in linea con noi ci riporta in un passato anche recente, una storia, una pagina di storia con cui anche noi occidentali dovremmo fare i conti un po' più spesso, perché l'abbiamo un po' dimenticata, ma ieri ci è stata riproposta con una sentenza. Che poi è la notizia di ieri. Eh sì. I've got a right to be wrong. My mistakes will make me strong. The accused commanded and controlled VRS units and tasked some of them to cooperate with the MOOP. La voce che sentite è quella del presidente della Corte all'Aia, Alfonso Orie, che pronuncia ieri la sentenza di primo grado, per la verità, di condanna all'ergastolo per Ratko Mladic, che era il supremo comandante dei serbi in Bosnia 1995, quando nell'enclave di Srebrenica, enclave musulmana, furono uccise in maniera spietata. Credo che il conto giusto sia 8.372 persone. Questi sono quelli che sono stati confermati. I musulmani sostengono che si tratti addirittura di 12.000 vittime. Esatto. Noi... E parliamo di 10 reati che sono stati confermati su 11, tra cui quello di genocidio, parola genocidio controversissima su cui l'Occidente fino adesso ha voluto fare in qualche modo orecchie da mercante. Ieri è con il veto della Russia che, quando si parlò di confermare il genocidio, mise il veto. E ieri per la prima volta si è parlato di un vero e proprio genocidio, sì, cioè la più grossa strage dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ratko Mladic ha sempre avuto un atteggiamento molto sfrontato nei confronti della corte, ricusata, anche con atteggiamenti plastici di evidente protesta, ma la condanna è arrivata. Noi ringraziamo moltissimo, e la prima funambola appunto che è con noi si chiama Mubina Civic. È una sopravvissuta di Srebrenica. Buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Nel 95 lei aveva 10 anni, se non sbaglio. All'inizio della guerra, 10 anni, sì. 10. Ho vissuto 3 anni lì, sì, 13 e mezzo più o meno. Sì. Chi ha perso in quella... Ho perso tutti i maschi della mia famiglia, tutti gli uomini. Ma mio padre, di materni e paterni, tantissimi cugini... E ci sono le famiglie veramente sterminate, le mogli che sono rimaste senza mariti e 7 figli, insomma è una strage veramente che non si scorderà. Ma lei se lo ricorda quel giorno? Com'era l'atmosfera? Certo. Sì. Mi ricordo tutti quegli anni, sì, 10-11 luglio sono stata come tantissime persone alla base dell'ONU a Potčari. Sì, ho visto tantissime persone morte, sparatorie, violenze, perché davanti agli nostri occhi. Ecco, la base dell'ONU, questo è un punto importante da chiarire, perché quando io ho detto responsabilità occidentale, c'erano i caschi blu dell'ONU, c'erano soprattutto i caschi blu olandesi, ma per carità, voglio dire, quando poi si parla di ONU vuol dire ONU, quindi tutti noi se crediamo all'ONU, e su questo si potrebbe aprire un capitolo che non apriamo qui. Ma, sì, che non fu in grado di intervenire in alcun modo. Assolutamente, no, anzi proprio non fece nulla, ecco, diciamolo chiaramente, anzi, o no? Sì, è giusto. Non ha fatto, anzi, ha fatto pochissimo. C'erano soltanto gli olandesi, dei soldati olandesi che non furono praticamente in grado di intervenire? Ultimamente sono stati solo loro. C'erano da 93 fino a 95, c'erano diverse nazioni. Che effetto fa questa sentenza? Cioè ritira fuori tutto un dolore che peraltro è difficilmente dimenticabile, anzi impossibile da dimenticare, oppure dà un senso, in qualche modo placa un senso di giustizia? Penso che la condanna è giusta, credo che ancora oggi la giustizia esiste, però bisogna aspettarla per molto tempo, e credo che in qualche modo è stata fatta la giustizia a queste vittime, forse non è sufficiente perché loro non torneranno mai più, però ecco, sì, penso che si può dire che a queste madri che è uscita la verità, insomma. Ma lei... Mamme, Mubin è andata via, è andata, chiaramente ha lasciato la Jugoslavia ai tempi, l'ex Jugoslavia, è andata a stare prima in Svezia e poi è venuta in Italia. Sì. E non ha mai pensato di fare ritorno? No, non credo. Penso che Mladic mi ha tolto la speranza che in quella terra possono convivere i tre popoli. Al momento credo che non è possibile. Non è l'idea, chiaramente Mladic era il responsabile, il supremo comandante, quindi è giusto che venga condannato se ritenuto colpevole, come è successo alla Corte. Non è però, come dire, prendere una persona, in realtà le responsabilità, si sa, non sono mai di una persona sola, no? Ma lui dovrebbe pagare per le sue azioni, perché lui è stato al comando, lui è stato visto da tutte queste persone fisicamente e le prove ci sono, noi ci siamo, le 8.000 tombe a Potocari oggi ci sono come testimonianza, come prova, tanti filmati, tante persone, tante vittime, tante donne violentate, no. La bambina uccisa a 6 giorni di vita in base lì a Potocari, ci sono tantissimi ragazzi di 12 anni uccisi, questo penso che... Questo paga. Oltretutto, poi quando è stato finalmente trovato ed è stata perquisita la casa, ecco Telese che purtroppo ogni tanto non ha preso l'antipsicotico stamattina, adesso dopo glielo do. E, dicevo che purtroppo furono trovati i diari, 18.000 pagine di diari in cui lui aveva pedissequamente annotato tutto ciò che era stato fatto, per cui eccetto le pagine di Srebrenica che erano state rimosse e staccate, ma tutto quello che è accaduto è scritto minuziosamente, quindi non c'è, insomma, non c'è dubbio di alcuna sorta. No, le testimonianze sono molto chiare. Mubina Civic, come si convive con il presente sapendo che una parte del suo passato, suo e di tanti suoi familiari, tanti suoi connazionali, è questo? Ma vedere e sentirlo ieri dichiarandosi innocente, ho creduto che queste persone si sono uccise da sole, si convive, si ritorna tutti i giorni ti ritrovi il pensiero, se fossi, non c'era quella guerra, se non è successo magari stavo meglio lì, non mi mancava oggi quello che potevo, ecco. Stare lontane dalla famiglia, non vedere mai più le persone che appena hanno iniziato a vivere. Mio padre è stato ucciso a 40 anni, è stato ritrovato 10 anni dopo, è sepolto a Potocari. Nelle cosiddette fosse comuni, perché poi venivano buttati. Sì, ancora oggi non sono stati ritrovati, non si sa dove sono queste altre fosse comuni, tra cui ci sta anche mio zio. No, è chiaro, che come si vive, voglio dire, questa è la risposta di come si vive sapendo che non tanti anni fa è successa una tragedia del genere. Eh sì, perché poi è veramente storia recentissima, cioè parliamo di 25 anni fa, nemmeno. Ma per noi che hanno vissuto direttamente, non è che sono passati 22 anni, ti ritrovi tutti i giorni, cioè, il pensiero è quello ti ha toccato, insomma, non fisicamente, psicologicamente, ti senti un po' nel passato. Ma Mubina, lei crede che questa sentenza nel clima che si crea tra questi, appunto, tre popoli, queste tre etnie, come contribuirà? Cioè, aiuterà o invece tenderà ad esasperare ancora di più gli animi nelle differenze? Ma seguendo i popoli serbi, ma minoranza, lo vede come eroe, secondo me sì. Non può essere, e non è, né tutti i serbi non sono contenti con questa cosa, è stata fatta una cosa contro l'umanità e non credo che, è una vergogna del popolo secondo me Ratko Mladic, per quello che ha fatto. Ma questo sicuramente, noi occidentali dobbiamo anche forse, ripeto, parlare un po' di più. Eh sì, sì. Dovremmo anche fare un po' un esame di coscienza, una riflessione, insomma, è stato un po', non dico accantonato. Oggi Mattia Feltri fa un bel intervento sul Buongiorno della Stampa in prima pagina, raccontare che in qualche modo quella tragedia fu presto accantonata, perché erano gli anni anche dopo il crollo del muro di Berlino, di un mondo in movimento, di una distrazione da parte anche del mondo occidentale di tutto quello che stava succedendo in quella situazione, che per carità era seguita, ma è stata così seguita e così presto poi messa da parte. Sì, siamo un po' stati lasciati forse da tutto il mondo, come in quel momento si poteva risolvere qualcosa in più, ecco, salvare le vite umane. questo senza intervenire, sì. Noi siamo almeno contenti e speriamo, insomma, che lei abbia trovato un po' una sua strada, insomma, vive in Italia, per questo parla questo splendido italiano, fa l'allenatrice di atletica per bambini, è vero? Sì. Insomma, le auguriamo di trovare comunque un percorso nella sua vita. Sì, e anche che questa sentenza le restituisca un minimo di sensazione di giustizia, se non altro, per quanto non potrà restituirle tutto il resto. A lei e ovviamente a tutti i parenti delle vittime la ringraziamo molto per essere stata con noi. Mubina Civic, che ci ha raccontato quel massacro di Srebrenica. C'è da aggiungere un'ultima cosa, Alessandro, in chiusura, che la Serbia in realtà poi, che è stata per molto tempo ha tenuto Mladic, l'ha fatto latitare ed è stata connivente in questo senso, è riuscita a venderne la pelle, a farlo arrestare quando poi si è presentata la questione dell'entrata in Europa, perché altrimenti forse non sarebbe accaduto ancora, perché c'era un'enorme connivenza. Esattamente così, alle 9:22 minuti, va bene, dopo questa testimonianza anche intensa, come potete immaginare, vogliamo cambiare un pochino registro, venire alle cose italiane, ai racconti dei funamboli nostrani. Allora, Veronica, tu ricorderai certamente quando ci siamo occupati di recente del comune di Sappada, in provincia di Belluno. Sappada. Certo. Vuoi un invito gratis a Sappada, un soggiorno, un weekend? Sappada, che potrei andare a fare? Dammi no, un po' un suggerimento. Io te lo devo dare, ce lo deve dire il sindaco. Sindaco! Il sindaco Manuel Pillerhofer, buongiorno e ben ritrovato. Tra l'altro, sindaco, noi diciamo salve, sempre sindaco. Sappada in provincia di Belluno, Veneto. Finita così. Dobbiamo aggiornare tutto. Che stiamo cambiando. Sappada di ieri, adesso però. In provincia di? Sembrava in provincia di Udine. Siete passati alla provincia di Udine. Siete passati diciamo in Friuli Venezia Giulia. Sì, dicevo che col voto di ieri è stato fatto un grossissimo passo avanti sulla questione del nostro referendum per il passaggio di regione. Ci manca ancora la firma del capo dello Stato, pubblicazione in gazzetta. Adesso la Camera ha votato, il Parlamento ha votato, si immagina che il capo dello Stato si metterà di traverso a questa firma. Cioè voi siete un comune passato dal Veneto al Friuli, avrete ottenuto l'autonomia. Avete ottenuto quello che vogliono metà dei comuni che vogliono annettersi alle regioni a statuto speciale, quindi avete creato un precedente pericolosissimo, sindaco. Sicuramente ho sempre detto che il caso Sappada andava sottovalutato e che chiaramente nel tempo, in questi 10 anni comunque l'iter è andato avanti, abbiamo sempre preso pareri favorevoli e è chiaro che oggi è un precedente a livello nazionale e che accenderà i riflettori su questioni ben più complesse di confini, autonomie, cose che avevamo già un po' accennato. Per Zaia è uno scandalo, ha perso un comune, non so se ci teneva molto a Sappada, ma soprattutto Zaia che vuole l'autonomia, più autonomia, dice allora che faremo? Daremo tra un po' lo sbocco al mare, al Trentino Alto Adige, a tutti, insomma. Facciamo Friuli. Un'unica regione a statuto speciale, perché il Friuli arriva fino a Roma tra un po', esatto. Può darsi che anche noi ci annettiamo, Diciamo che adesso la voglia di autonomia verrà a molte. È chiaro che, come ho sempre detto, l'ho detto anche l'altra volta, la questione andrebbero affrontate in maniera molto più ampia e superiore. E qui si è voluto analizzare il caso specifico, che comunque, ricordo, Sappada ha delle particolarità per una serie di motivi, però è chiaro che dal punto di vista del concetto di autonomia del regionale è un precedente che può creare scossoni. Ma ci fa capire in pratica cosa succede? Cioè, un cittadino di Sappada adesso, tecnicamente, proprio ce lo metta in soldoni, che cosa potrà avere facendo parte di una regione autonoma che prima non aveva? Allora, diciamo che intanto ci sarà sicuramente un periodo abbastanza complicato, penso, perché non essendo il primo caso è tutto da scoprire anche tecnicamente come riorganizzare la macchina amministrativa e anche la vita quotidiana, perché ovviamente il cittadino... Ah, beh, questo è un problema vostro, non certo del cittadino. No, chiaro. Sicuramente nell'autonomia sappiamo che si gestiscono le risorse in maniera diversa, ci sono delle agevolazioni che il privato vede, perché essendo zona di confine, che è chiaro che vede che di là le cose sono agevolate. Faccio degli esempi banalissimi, dalla benzina all'acquisto della prima casa, ci sono sicuramente delle cose che il cittadino guarda e nelle zone confine, a maggior ragione questa differenza viene amplificata. Prima casa, non so, aiuti per gli asili magari, per chi ha figli? Sì, beh, i trasporti, ci sono vari, ripeto, adesso l'analisi va fatta a singolo settore e sarà anche abbastanza complessa, presumo, ripeto, non c'è un precedente, quindi siamo qui che cerchiamo di capirci anche noi qualcosa in più. Cioè, l'avete fatto, adesso dovete capire bene. Una volta che l'avete ottenuto, non avete ancora ben capito che cosa vi porterà. Ma sindaco, la versione ufficiale è che vi premeva maggiormente la vicenda storica, il fatto che voi foste storicamente parte del Friuli Venezia Giulia, o è dichiarato che il fatto che ci siano dei vantaggi di natura economica sia stato il motore? Sindaco, sia sincero. Sindaco, ci dica la verità. Fino al 1852 ha fatto parte del Friuli Venezia Giulia, quindi di fatto noi eravamo comunque parte del Friuli Venezia Giulia. È vero che Sappada è un'area di confine, è passata dal Patriarcato di Aquileia alla Serenissima, sotto l'impero austriaco, quindi abbiamo passato, ci hanno fatto girare un po' sul territorio. Ci sono le motivazioni anche culturali, perché faccio l'esempio, Sappada comunque è un caso particolare, perché oggi la diocesi ad esempio è quella di, nonostante siamo in Veneto, molte delle associazioni sportive che hanno portato campioni a livello mondiale sono già diciamo Friuli Venezia Giulia. Questo rapporto c'è e la gente, molti sono... Cioè lei si sente già friulano, si è sempre sentito friulano, non bene. No, mi piace dire che si chiede a un sappadino, soprattutto ad una persona di una certa età, si sente veneto friulano, la prima risposta che danno è che si sentono sappadini, perché abbiamo un'identità storico-linguistica unica e a cui ci teniamo e vogliamo portarla avanti e difenderla. Quindi in Veneto vi sentivate un po' stranieri, insomma... Ma anche in Friuli, se sono sappadini. Diciamo che in Veneto il problema della montagna è un problema generale della provincia di Belluno, e il fatto che ci siano tanti referendum in provincia di Belluno sicuramente era, secondo me, un grido d'allarme che doveva far riflettere la politica, che forse andava presa in mano la situazione, cioè non il singolo caso, ma una visione un po' più ampia. Ma su questo le volevo chiedere, sindaco, ovviamente il governatore Zaia, dicevamo, si è indispettito, però in realtà gli serve anche come assist per ribadire che se ci fosse la possibilità di avere reali autonomie per tutte le regioni, non ci sarebbe questa questione dei singoli comuni che decidono di, no, queste amputazioni molto più piccole. Secondo lei, se ci fosse stata una reale possibilità di autonomia, ora non mi azzardo fino allo statuto speciale, però per il Veneto, ci sarebbe stata comunque l'esigenza di Sappada di tornare al Friuli Venezia Giulia? Ma è chiaro che sicuramente il fatto di avere l'autonomia, una prospettiva concreta, penso qualche equilibrio lo spostava anche nel pensiero della popolazione. È anche vero che c'è qualcuno a Sappada che non era contento di passare, l'ha manifestata soprattutto nell'ultimo periodo anche con una raccolta firme. Quindi è chiaro che c'è una componente che è contenta, una componente che... Ma sì, non sono contenti? Quali sono le... No, questo sono... Così? Quali sono le motivazioni di chi non è contento? Cioè, cosa lamentano? Cioè, sollevavano delle problematiche anche proprio più sul pratico. Cosa succede domani con la sanità? E infatti, guarda, lo chiedo un ascoltatore, ma andrete in ospedale, per dire un sappadino, andrà in ospedale a Udine e adesso a Belluno? Ma diciamo che abbiamo la fortuna di poterci dividere, quindi molti andavano a Tolmezzo, molti vanno a Pieve di Cadore, molti vanno a Udine, molti vanno a Belluno. Comunque vedi, Zaia ha detto è un disastro, la Serracchiani, cioè presidente del Friuli Venezia Giulia, ha detto è una delle gratificazioni profonde di questa mia legislatura, i sappadini sono tornati dopo essere stati staccati a lungo dal loro ceppo, sono tornati. Cioè, capite? Siamo allo shopping, il Black Friday dei comuni, le regioni che se li contendono. Sì, la cosa dello shopping è venuta fuori anche alla Camera nelle votazioni. È chiaro che poi Sappada, diciamo, è un piccolo paesino, all'ultimo è anche stata, per virgolette, mentalizzata con la tutta. Va bene, dai sindaco, vedremo che cosa cambierà. La ringraziamo intanto, sindaco di Sappada, provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia. Si le maniche, che adesso tocca lavorare per risistemare tutto. No, a me fa effetto, Sappada, Udine, Friuli Venezia Giulia, prima era Sappada, Belluno, Veneto. Allora... È un attimo, ti cambiano le cose sotto gli occhi, incredibile. C'è Marco che ci chiama da Fermo. Buongiorno Marco. Buongiorno Alessandro. Eccoci. Complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. Grazie. Ma Alessandro, io volevo parlare un po' del discorso di Mladic, di quello che è successo comunque in Serbia. Erano nella KFOR e quindi ho visto da vicino, diciamo, tutto quello che è accaduto. La KFOR era la nostra missione, esatto, militare all'estero, esatto. In questo caso militare all'estero, esatto. Ma io credo che sia stata anche una pena fin troppo blanda per quello che è successo. Purtroppo noi abbiamo sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto in Bosnia e Erzegovina, ma non credo che sia solo Mladic il colpevole di tutta questa situazione. C'era proprio un meccanismo e qualcuno faceva anche finta di non vedere, secondo il mio modestissimo parere. Quindi vedendo quello che è successo, Lei dice è stata una cosa davvero terribile, indescrivibile. Ma diciamo che forse si poteva anche intervenire prima, anche con l'ONU, perché comunque i massacri di Srebrenica, i massacri che ci sono stati praticamente sotto gli occhi di tutti, anche i bombardamenti che fecero gli americani. Per cui la mia domanda è questa: come mai non si è intervenuto prima per fare e per fermare una cosa del genere? E questa è la grande domanda. In Olanda c'è stata anche condanne. No, ma poi in Olanda in realtà c'è stata una prima fase in cui i soldati, gli uomini che erano lì, sono stati accusati, moltissimi sono finiti. Ma è la storia, è la storia. Guarda, nel 94 in Ruanda, il genocidio del Ruanda, c'è stata l'ONU. Si fu dato ordine di ritirarsi, perché l'anno prima c'era stata la Somalia, le perdite americane. Cioè è la storia del mondo degli interventi internazionali. Ci fu un generale che voglio ricordare, l'ho incontrato e conosciuto, Romeo Dallaire, generale canadese che comandava le forze in Ruanda, che si oppose a questo ritiro, rimase lì. Ma è storia di uomini coraggiosi, per il resto, cioè la comunità internazionale se ne è sempre fottuta. Ma anche poi, il problema è questo: il problema è che è una responsabilità collettiva, per cui anche i singoli soldati olandesi poi sono stati tutti quanti addirittura insigniti delle medaglie al valore, non per quello che hanno fatto, ma per quello che hanno subito poi dopo tornati in patria, perché non era soltanto loro il problema, loro erano in loco, ma il problema erano le indicazioni che venivano dall'alto. Certo, ma questo sì. L'ONU al momento di intervenire, nelle varie fasi della storia, se ne è lavata spesso le mani. L'ONU vuol dire tutti noi, è la comunità internazionale, questo è il dato di fatto. Comunque la ringraziamo, Marco, per questa testimonianza diretta. Andiamo alla pubblicità. Veronica, non hai chiesto al sindaco di Sappada che cosa ti poteva servire, ma adesso... Perché l'ho visto un po' confuso adesso col problema di riorganizzare qui tra Belluno e Udine, però magari lo chiamo nel pomeriggio, è passata in la prima mattinata. Sono belle montagne. Pensavo, ma dici sciare lì intorno come stiamo combinati? Secondo me sì, vai alla grande. Cioè vado, mi faccio comunque un weekend lungo. Ski pass e via. Ski pass, chiaro, va una bene, bella... Ovvio. Mi mangio, capito, un po' di... No? Sì. Un po' di cosette in baita. E via. Pubblicità. Allora io per gennaio fisserei un weekend lungo a Sappada. I funamboli. Che Sappada sia passata sotto il Friuli, ragion ancor per cui il Veneto deve diventare regione autonoma. Assurdo giocare a Monopoli spostando un paese da qui a lì. Oh, ciao ragazzi, funamboli, tutto bene? Oh, ho appena finito il turno di notte, stavo andando a casa, vi ho sentito parlare di Fassino, fisico, mi è venuto proprio una voglia, adesso prendo la mia Punto 1000 benzina appena revisionata. Se mi dite dove vado, ho desiderio di andare a aiutarlo il Fassino. Invece di andare a dormire, vado ad aiutare Fassino. Dove vado? Non so. Io lo sapevo che c'erano delle persone buone, generose, che nonostante non abbiano dormito di notte, si muovono per andare a dare una mano a Fassino. Che poi magari aiutarlo vuol dire anche solo dargli un abbraccio contenitivo, di sì, affetto, tenerlo di, lì, di calore umano. Che poi essere stato rifiutato da qualcuno non significa essere rifiutati dagli altri, che non significa che lui abbia qualcosa che non va, lui in quanto Piero. No, infatti. Critico MDP, come direbbe Manera. Allora, il nostro ascoltatore, vedi, Sappada va di là e quindi il Veneto è i nostri ascoltatori e sono perspicaci, se gli avessimo dato l'autonomia Sappada rimaneva di qua. Le rivoluzioni nascono da piccoli episodi, poi magari insomma da Sappade, da oppure Sappadini. Si requisisce lo statuto speciale a tutte le regioni e il problema quello si risolve così. Lo so che quello andavo subito a titillare le tue quello sarebbe un sogno, via i gli tuoi statuti sogni speciali più profondi, capito, via statuti speciali per tutti. Guarda che è entrato negli studi intanto Critico Manera, il nostro Leonardo Manera, ma noi prima vogliamo salutare una persona, il prossimo funambolo, si chiama Pietro Boscacci, è con noi, buongiorno Boscacci. Buongiorno a tutti. 30 anni, sondrino, cioè nato a Sondrio, sondrino o sondriese? Sì. Sondriese. Sono triese, infatti, vedi, ho detto subito la prima cazzata. Tu... ho passato l'infanzia in Valtellina. Il turpiloquio, un utilizzo così. Della... Una cavolata. Allora, ecco. Va bene. Pietro Boscacci, tutto nasce da una disavventura, cioè fermato alla guida con un tasso alcolico oltre la norma, patente ritirata o sospesa, come... sospesa per un po' di mesi. Niente, succede. Tempo fa è successa questa cosa, Pietro? Ma un anno e mezzo fa. In realtà poi la patente ce l'ho ancora adesso. Sì, è stata sospesa temporaneamente. Ecco, temporaneamente, sì. Solo che c'è stata anche una condanna, un mese di lavori socialmente utili. Questa è stata la condanna. E questo lavori socialmente utili è diventata una opportunità, mi sembra di capire. Perché? Che fa lei? Sì, perché diciamo l'episodio è stato curioso, perché io sono arrivato lì in casa della carità per non sapendo assolutamente cosa mi aspettava con questo nome lavori socialmente utili, che magari incute un po' di timore. Casa della carità a Milano. Casa della carità a Milano. Ma se l'è scelto lei, Pietro, dove andare o gliel'hanno assegnato? No, io lo conoscevo già l'istituto. Sì. Perché ci avevo già lavorato in passato. Però diciamo avevo lavorato saltuariamente con dei gruppi musicali per suonare però a degli eventi specifici, ecco. Invece pensavo di dover occuparmi di carte, di conteggio, non so che lavori volevano fare. E invece? Quando invece mi hanno chiesto di cosa mi occupavo io nella vita, ho detto sono violinista, subito sono illuminati gli occhi e allora è partita questa idea. Cioè l'idea di suonare il violino, un mese di lavori socialmente utili? Ok, suonare per gli ospiti della Casa della Carità. Sì, suonare all'interno degli spazi, cioè lì hanno una biblioteca dove si incontrano sia appunto immigrati che sono lì di passaggio o stanno lì, oppure degli anziani del quartiere o che vengono portati lì da fuori per passare un po' di tempo. Persone che hanno bisogno, insomma, varie. Esatto, che hanno bisogno. È interessante questa cosa. Cioè, quindi il mese di lavori socialmente utili è stato passato proprio con l'intento di suonare, di fare cultura, non so, di intrattenimento, come lo possiamo... Cioè le giornate erano proprio così, 4-5 ore di... Sì, ma anche meno, 3 ore in cui arrivavo lì, prendevo i miei spartiti, o anche a memoria, adesso dipende da cosa dovevo fare, si incomincia a suonare e poi... automaticamente quella diciamo atmosfera un po' cupa, un po' di silenziosa, un po' timida che si crea chiaramente, perché poi ogni giorno arrivano anche ospiti diversi che magari non si conoscono, gente nuova che chiede una mano, e allora ecco, suonando si è visto subito che questa atmosfera si rompe e l'aria si colora un po' di vita, ecco. Poi, ma si sentiva, era palpabile, le persone apprezzavano, erano contente? Sì, perché sì, anche all'inizio ero più imbarazzato io di loro, nel senso che non sapevo neanche io cosa stavo andando a fare, no? Certo. E invece poi appena si comincia a suonare, comunque dal vivo prende sempre... Ma una curiosità, Pietro, ma chiedevano il motivo per cui lei era lì a suonare? Ci ha dovuto spiegare che era, come dire, una condanna da scontare, ecco, per dirla brutalmente. Sì, ma io sono sempre molto sincero sulle cose che devo fare, per cui anzi si scherza, no? Dicevo, beh ragazzi, oggi siete fortunati che avete fatto la musica, nella doccia con la musica, no? E poi molto molto semplicemente ci si racconta un po' delle esperienze. Ma dopo il mese di servizi sociali si è interrotta l'attività? Ma in realtà devo ancora finirla. Ah, ok. Però ecco. Lo stiamo distogliendo da una campanella di Paganini, non so. Da un trillo. È lì col violino. Però l'idea è quella di continuare o no? Che cosa pensa di fare, Pietro? No, io sono rimasto in contatto con loro perché mi hanno detto di continuare, sì, chiaramente non con la stessa frequenza perché deve fare altro, cioè, va bene il mese di lavoro socialmente utile, poi dopo anche altro da fare. Pietro Boscacci, noi la ringraziamo, grazie per averci raccontato questa storia, insomma da una condanna a un mese per tasso alcolico o alla guida è nata anche una opportunità. In realtà di necessità virtù, facendo proprio una cosa di tutt'altro genere rispetto alla punizione classica. Esatto. Bello. Dai, è il momento del traffico e poi arriva il nostro funambolo Leonardo Manera. I funamboli. Finalmente un po' di simil reggae muffin. Oh yeah. I missed a part of you, I can't get back. Don't be a silly Millie, I'm always here for you. Do the thick and thin, not just because we are. Allora, io farei andare 10 minuti, però. Serve un po' a rilassarsi. Vabbè, un po' rilassarsi perché io sto entrando in ansia per domenica. Domenica? Che succede? Sì, domenica devo portare mio figlio a due feste di compleanno. Mamma mia, ti capisco. Due feste di compleanno. Perché una non bastava per affliggere Leonardo. Una nel primo pomeriggio e l'altra nel tardo pomeriggio. Il problema è che le feste di compleanno non sono più come una volta che sei in casa tranquillo. No. Adesso ti portano a fare cose strane, tipo giochi con la spada laser. È vero. Oppure gare di mini moto dove giochi con la spada laser. Era il compleanno di Mattia, mio figlio. Dove? È venuto, devo dire che è entrato Leonardo, dopo 10 secondi ha detto: sono claustrofobico, io esco. E si è eclissato. No, perché poi spesso ci si fa male in quelle feste, adesso con tutte queste cose che devi fare. Quindi oltre al costo del regalo devi anche sopportare il costo dell'assicurazione sugli infortuni. No, vabbè, ecco, poi vabbè. Tu cerca anche di essere parsimonioso nel movimento, tra metà tu e metà tarso state un attimo buoni. No, però è vero anche questo, la piccola Marta in questa festa, le mando un grosso bacino, se è un pochino distorta. Un pochino, ha preso una bella distorsione anche. Che lei con distrazione del metatarso, questa correndo, povera bambina. Correndo. Come ha fatto? Una povera bambina correndo. Obbligata a giocare con le spade laser. Le hanno calpestato il piede. Succede. Vessazioni, proseguono le vessazioni, partono proprio in età infantile. Le vessazioni. Vabbè. Ad ogni modo, Alessandro, tu stamattina ti sei fatto la barba? No, allora io nemmeno io, cavolo. Tu non ti sei dipelata. E due giorni fa sul Corriere della Sera la scrittrice Dacia Maraini parlava di un tipico attributo maschile, la barba, e la diffusa moda contemporanea per molti maschi di farsi crescere la barba. Dacia Maraini interpretava questa tendenza come voglia di ristabilire l'autorità paterna. I peli precocemente ingrigiti, secondo l'ottima Dacia Maraini, diventano così un modo sbagliato, secondo lei, di riportare in vita un orgoglio maschile messo in pericolo. Ecco. Io che un po' di barba me la faccio crescere, non tanta, ma un pochino, me lo sono chiesto. Questa mia barba davvero rappresenta un modo di riportare in vita il mio orgoglio maschile messo in pericolo? E se la mia crescita di barba rappresenta tutto questo, la depilazione femminile rappresenta la femminilità femminile messa all'angolo? Davvero i destini caratteriali e sociologici di uomini e donne si decidono e si determinano attraverso il bulbo pilifero? Può un bulbo pilifero cambiare i destini del mondo? Io pensavo che le parti importanti del corpo di un uomo fossero altre, insomma. Invece Dacia Maraini mi ha fatto capire che in un uomo tutto si determina e si caratterizza attraverso il bulbo pilifero, che rappresenta il caput mundi della mascolinità. Sarebbe bello che bastasse un po' di pelo a cambiare le sorti del mondo. Sarebbe bello se dopo decenni in cui l'uomo, almeno in Occidente, è stato sottoposto a una progressiva perdita di ruolo, ecco, sarebbe bello se il pelo maschile potesse rappresentare il vessillo, il simbolo di una nuova mascolinità testosteronica. Finalmente dotati di pelo sul mento e sulle guance, e qualcuno anche dentro il naso e nelle orecchie, finalmente dotati di pelo, noi maschi occidentali potremo ritrovare un posto gratificante nel mondo. I figli torneranno a rispettarci. Noi torneremo padroni del telecomando senza sottostare ai capricci dispotici di figli irrispettosi della figura paterna. Le mogli torneranno sorridenti a servirci pietanze calde e succulente sul desk familiare. Le suocere si zittiranno di fronte alle parole del capofamiglia e di notte l'uomo, finalmente rinfrancato da una novella mascolinità, riconosciuto urbi e torbi, di notte l'uomo si produrrà in prestazioni olimpiche rocco-sifrediane, dimenticando nel più remoto dei cassetti l'ormai inutile pillola blu. Magari, magari fosse così. Non basta, non basterà il pelo a noi uomini occidentali a evitare le gite del sabato pomeriggio all'IKEA. Non basta e non basterà il pelo a noi poveri uomini occidentali a evitare il lavaggio dei piatti, la disincrostazione del calcare, l'aspirazione degli acari in misura almeno pari alle donne. Non basta e non basterà il pelo a noi poveri uomini occidentali a evitare devastanti ansie da prestazioni nel talamo nuziale di fronte a donne ormai avvezze al sesso anche con animatori tartarugati e stalloni cubani. Magari fosse così, in qualche caso fonderei subito il PBP, il partito del bulbo pilifero. Invece no, la barba secondo me è una pura funzione estetica, i pelati come me se la fanno crescere perché gli sembra di essere meno nudi, i peli che non abbiamo più sulla testa cerchiamo di farli crescere più giù, ormai il ruolo almeno incidente giustamente sono mischiati e da maschio rispetto alle donne posso dire che non mi interessa ribadire attraverso la barba un ruolo dominante con una mia compagna, mi basterebbe un 33% di sesso spensierato, un 33% di rispetto, un 33% di complicità e se possibile, ma senza esagerare, anche un 1% d'amore che finisce sempre e comunque. L'amore finisce sempre e comunque. In particolar modo mi spiegavi, dopo il terzo anno proprio è finita per sempre, giusto? Sì, sì, perché sono i due ormoni dell'amore, ossitocina e dopamina, che dopo il terzo anno per la stessa persona non vengono più prodotti. Ma l'unico... vogliamo fare uno speciale di Funamboli, Leonardo, in cui tu ci spieghi bene esattamente come finisce l'amore, che tipo di precauzioni possiamo prendere affinché non finisca? Allora, l'unica precauzione, paradossalmente, per non far finire l'amore è fare l'amore, perché facendo l'amore si produce ossitocina, che è l'ormone dell'affetto e l'ormone dell'amore. Quindi, visto che queste cose dopo tre anni non vengono più prodotte naturalmente, l'unico modo per continuare a produrre bisogna accoppiarsi il più spesso possibile. Il più possibile. Va bene, c'è Daniela che ci ha chiamato all'800240024. Daniela, con lei concludiamo la prima parte. Eccoci. Sì, ciao a tutti. Buongiorno, ciao. Allora, io volevo semplicemente condividere con voi la mia esperienza in Bosnia. Io ho 24 anni e ci sono andata 5 anni fa. Sono nata nel 93, quando la guerra è scoppiata, quindi l'ho vista a posteriori, sì. Non l'ho vissuta in prima persona. E io della condanna di Mladic sono veramente soddisfatta, io sento una profonda calma dentro di me quando ho sentito questa notizia, perché penso sia stato un mostro. Cosa hai visto? Cosa ricordi di quella gita? Innanzitutto dei palazzi che Sarajevo è metà moderna e metà veramente pezzi di storia. I palazzi con i buchi, metà distrutti, che sono ancora lì, che nessuno... Sì. Si è degnato o ha potuto ricostruire. E poi Mostar, e poi l'esperienza più forte è stata sicuramente Srebrenica, proprio dove ci sono queste tombe. Sì. Ma l'atmosfera che hai sentito è ancora molto tesa? No, Veronica, scusami, dobbiamo andare al giornale radio. Daniela, ti ringraziamo molto, magari dopo ti recuperiamo. Le ritelefono io oggi pomeriggio. Va bene. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli. A pensarci bene, una cosa ce l'avrei da dire a Fassino e ai suoi colleghi. Sì, siamo molto toccati da questa spaccatura, però il pensiero sincero è questo: ma chi se ne frega? Making bloodshot eyes at every woman that to me. Critico MDP. No, critico MDP. Questa insensibilità io non la capisco. No, ma infatti devo dire che è arrivato un messaggio. Dite a Manera che è 8 anni che sto con la mia fidanzata e continuiamo ad amarci, a far l'amore come se fosse il primo giorno, anzi meglio. Sì, ma lei probabilmente lo fa bene con te, perché poi lo fa anche con altre. Questa cosa fa aumentare l'ossitocina in generale, diciamo. Perché questo non ce l'hai specificato prima, Leo. Se uno va a fare l'amore con altri produce ossitocina che si ripercuote in senso positivo sulla coppia. Allora, il grande inghippo è questo, Veronica, che tu puoi pensare una sera faccio l'amore così a per caso con uno, come capita. Il problema è che con qualsiasi come capita per caso con uno, il problema è che anche facendo l'amore in modo occasionale, sì, tu comunque produci ossitocina, e anche non volendo, se fai l'amore anche solo 3-4 volte con questa persona, ti affezioni a lui, quindi è difficile vedere rapporti, avere dei rapporti puramente occasionali che non determinano una sorta di affetto. Ma datelo e datela, quindi, come se non ci fosse un domani. Vedi che non ascolti con attenzione. Sostanzialmente lui ti sta dicendo che non crede nella possibilità di un sesso così casuale, sportivo, senza che ci sia un minimo di implicazione da ossitocina. È vero, è così. Comunque, ascoltavamo anche il giornale radio, signori, e mi ricordate, tra l'altro, hai visto la mia faccetta? Sì, di Luigi Genovese, che è indagato. Il figlio di Franco Antonio Genovese. Esatto. Deputato dell'ARS, e tra l'altro segnalo che è il quarto deputato dell'ARS, si chiamano così in Sicilia, no? Assemblea regionale, già indagato. Appena sono state le elezioni un mese fa. E subentreranno alla fine tutti i secondi, i terzi non eletti. Della carica dei 101 impresentabili che erano stati battezzati così in partenza, adesso anche Luigi Genovese, 21enne, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui, è indagato per riciclaggio, esatto? Il riciclaggio di denaro, esatto. Sì. Queste le accuse pesanti, vedremo come si difenderà. Magari avremo il piacere di riospitarlo qui, così ne chiacchieriamo con lui. Vediamo, Veronica, fatti mandare qualcuno dei suoi milioncini che hanno all'estero. Di tutte questa è una cosa, adesso ci vado un po' a riflettere. Adesso non è detto, è indagato, fate i bravi, che poi dopo si arrabbia. Leonardo giustamente pensava a me, qualora esistessero i milioncini, dice vedi come organizzarti, Veronica. Davvero che te serve. Allora, alle 10:10 minuti, dai, il momento del funambolo, anzi la funambola del giorno. Nome: Antonella. Cognome: Moretti. Età: 45 anni. Ha lasciato il suo lavoro da contabile a Trieste e insieme al marito e ai figli si è trasferita in Cina, dove ha iniziato la carriera di scrittrice. Il suo primo romanzo si intitola Prezzemolo e Cilandro, storie di donne italiane in Cina. Intanto c'è un mistero, da dove ha lasciato? Treviso o Trieste? Perché non l'ho capita. Antonella Moretti, buongiorno. Trieste, buongiorno, credo. Salve a tutti. Dove viveva in Italia? Triestina? Allora, io sono triestina, però vivevo in provincia di Gorizia con mio marito, ecco, la famiglia. Quindi nessuno delle due ipotesi, esatto. E dove si trova in questo momento? Adesso sono a Suzhou, che è una città nella provincia dello Jiangsu, che si trova più o meno a 100 km da Shanghai. 100 km da Shanghai. E da quanto tempo è lì, Antonella? Io sono qua dal 2012, da più di 5 anni, quindi. Da parecchio. E tra l'altro sì, e ha aperto questo blog in cui racconta la vita da famiglia che ha deciso da di cinese. Trasferirsi. Sì, esatto. E in cui, cosa racconta in questo blog? Sì, ho iniziato il blog subito con l'intento di raccontare alla famiglia, agli amici, un po' di vicissitudini di questa famiglia italiana che si ritrova nella vita quotidiana in Cina, perché non sapevo davvero cosa aspettarmi prima di partire e non sapevano cosa aspettarsi neanche i miei parenti che sono rimasti in Italia. Ho iniziato un po' a raccontare le piccole avventure, ad esempio dove trovare delle cose da mangiare che fossero riconoscibili per i bambini, piccole cose che sono anche alle volte un po' difficili nella vita quotidiana. Sì. Ma voi siete partiti per la Cina perché? Cioè, qual è stato il motore che vi ha spinti? Il motore è stato il lavoro di mio marito, che ha avuto un'offerta nuova, un'offerta per un lavoro nuovo che prevedeva il trasferimento. E quindi abbiamo deciso di provarci, di vivere questa avventura e poi alla fine siamo stati contenti della scelta. È vero, una cosa che mi colpisce, dice, bisogna dire che la vita in Cina è cara. È davvero così? Allora, qualcuno dice che la vita è cara solo per gli espatriati e per i cinesi ricchi. In realtà sì, esistono anche molti cinesi che vivono con poco. Ma naturalmente per una famiglia che arriva dall'Italia a vivere al 100% con gli standard del gestione del posto non è possibile, perché comunque i bambini frequentano delle scuole internazionali e si continua ad acquistare anche del cibo importato per farli anche continuare una tradizione culinaria alla quale sono abituati, quindi i costi ci aumentano. Sono, ci sono. Ma cosa si mangia in Cina veramente, al di là di quello che mangiamo noi di cinese qui in Italia? Vabbè, il cibo cinese secondo me è buonissimo. Sì, il pollo alle mandorle ad esempio non esiste, non l'ho mai visto. Ma come? Ma come? Cioè, pollo alle mandorle, non mi dica che non esiste l'involtino primavera a questo ma punto. Ma si sa che queste sono rivisitazioni occidentali. L'involtino primavera esiste. È diversissimo dal però. Cinese che mangiamo qui. Ma immagino questo certamente. Cioè il pollo alle mandorle non esiste. Io non l'ho mai visto. Forse esiste, ma io non l'ho mai visto. Cosa non si mangia mai allora? Visto lei in 5 anni. Cosa si mangia allora? Quali sono i piatti forti? Beh, i piatti forti sono i ravioli cinesi, certo. E poi ci sono anche gli spaghetti in brodo, l'anatra alla pechinese, poi ci sono dei fagottini morbidi che si chiamano baos, ripieni dolci o salati. Molte cose buone. Ma Antonella, lei dice che la vita in Cina è meno stressante, che le sue amiche in Italia sono molto più stressate di lei. Perché? Che cosa c'è che è più rilassante, più tranquillo? Allora, intanto bisogna dire che quando mi sono trasferita io ho lasciato il lavoro che avevo in Italia. In Italia facevo la contabile, la pendolare e quindi comunque una vita sempre di corsa. Qui la vita è più comoda perché ad esempio i bambini vanno a scuola con lo scuolabus e lo scuolabus parte da sotto casa e fanno anche le attività sportive e varie attività a scuola. Quindi non c'è il bisogno di correre a prenderli. E poi c'è la comodità anche che si può comprare tutto online. Io faccio sempre la spesa online dal telefonino come fanno tutti i cinesi. Sì. E quindi non c'è neanche la necessità di andare in un negozio, per dire. Però c'è tanto inquinamento anche, lì. Beh, forse non dove si trova lei. Sì. No, questo è diciamo una delle parti più negative della vita qui. Cioè, l'inquinamento c'è indubbiamente, soprattutto in certi periodi dell'anno. Sta un po' diminuendo, a dire il vero. 5 anni fa era peggio, però ci sono delle settimane in cui il cielo è grigio e certo. Resta grigio. E va bene, comunque insomma, come raggiungerla cara Antonella? Cioè, se qualcuno volesse informarsi di più, leggere il suo blog, dia una coordinata. Sì, allora il mio blog è cucinanto.com. Cucinanto, come Antonella? Cucinanto, sì. È un misto tra le parole cucina, cina e anto. Sì, perfetto. E nella pagina dei contatti c'è la mia mail, quindi sì. Insomma, chiunque può scrivermi per chiedere informazioni. Ricevo spesso delle mail da donne in procinto di trasferirsi. A sapere come fare, esatto. Mamme, sì. Antonella Moretti, noi la ringraziamo moltissimo, ovviamente, dalla Cina. Prima del traffico, devo dire, Veronica, è arrivato un messaggio. Ah, però, che te serve? Una mail a funamboli@radio24.it. C'è una signora molto gentile, sì. Pinuccia da Cadorago, in provincia di Como, Pinuccia, che sì. Offre un bel pettine, perché con le mani l'acconciatura si rovina. Evidentemente ti spia su Facebook e vede che ogni tanto ti mi regala ciuffi. Un pettine, e c'ha ragione, perché con le mani i ricci si rovinano. Esatto, un pettine. Siamo partiti da gioielli, arriviamo ai pettini, si sta calando clamorosamente. Cioè, stiamo cercando di coprire un po' tutta la rosa possibile. Beh, esatto. Pinuccia, mi sembra intanto un buon suggerimento. No, poi, esatto, intanto il pettine noi lo teniamo lì, Comunque lo prendiamo in considerazione. No, sai, i pettini magari che poi un pettine, pensandoci anche a te, non è che ti farebbe male, no? Anche a me, guarda. A maniera. No, c'è 46. Un'altra cosa, devo dire, c'è un'altra cosa, però questo è un giallo che si sta diffondendo sull'eventuale ripescaggio dell'Italia ai mondiali. Io sapevo, vi giuro, sono entrato al bar oggi a bere il caffè verso le 8 e c'era gente che parlava solo di qua, ma è vero che l'Italia viene ripescata? Ma è vero, è vero, è vero. Adesso adesso svegliamo tutto, cioè svegliamo tutto, non lo so, spieghiamo tutto dopo il traffico. I funamboli. Allora, la vicenda è anche un po' misteriosa, viene da qualche giornale del Perù. Allora, il Perù, nazionale che si è qualificata per i mondiali, ma secondo alcuni giornali, per una gabola che riguarda la Federcalcio del Perù. È una questione che non siamo stati anche troppo regolari nella Federcalcio peruviana. No, nel Perù c'è un problema con la Federcalcio del paese, per cui il Perù rischia l'estromissione per delle regole che non hanno rispettato. Poi dite che la burocrazia c'è soltanto in Italia, eh? Ora, i poveri peruviani. Da qui, siccome ai mondiali devono andare un numero preciso, adesso non ricordo se 24 o 36, non lo so. Comunque, se togliamo il Perù, c'è un po'. Allora, io non capisco perché se togliamo il Perù debba andare l'Italia, intanto, cari italiani. Però i bookmakers la danno 51 la possibilità che si ripeschi l'Italia. Si dovrebbe ripescare al limite la Nuova Zelanda, che ha perso lo spareggio col Perù. Non ho capito da cosa derivi questa speranza per l'Italia. Lo hanno scritto i giornali peruviani, che potrebbe rientrare ma l'Italia. Ma perché? In nome di che cosa? Del prestigio? In nome dell'amicizia che unisce il Perù con gli italiani. Così che il Perù decide chi entra al suo posto. A parte che, boh, andiamo a vedere. A te, Veronica, sarebbe un colpo di scena clamoroso. Sarebbe clamoroso. Io credo che la giornata di oggi la passerò a interrogarmi su questo, come tu passerai la tua a interrogarti sul futuro di MDP. No, esatto. Credo che ci sia un'assoluta equipollenza. Voi non ci credete, ma a parte invertite, le giornate andranno più o meno così. Vi ricordate quando giocavamo? Questo ti rendi conto che stai rivelando troppo di noi? Che questo diventa, no? Temo di uscirne peggio io, sì, esatto. Ma comunque sì. Da noi giocava così. Giulio Cesar Uribe, ti ricordi? Uribe, no, grande giocatore peruviano degli anni 80. Come no, assolutamente. Forse anche Barbadillo era un giocatore. Geronimo Barbadillo, sì. Vedi, Veronica. Sei grande poeta peruviano, Barbadillo, non hai letto? Barbadillo io ho letto tutto, ma stai scherzando? E di Uribe? Un'opera omnia. Uribe è un poeta. Uribe anche, Uribe certo. Uribe, ciao. Allora, sono le 10:21 minuti, no? Vogliamo parlare di altro. C'è Agrigento con il suo sindaco molto arrabbiata nei confronti di Sky, perché c'è una fiction che, secondo il sindaco Calogero Firetto, che è con noi, buongiorno, denigra la città. Perché in questa fiction si parla di malavitosi, spaccio di droga, controllo del traffico, e viene ripreso ogni tanto, è vero, il nome di Agrigento, c'è un locale della città. Com'è la questione, sindaco? No, non è che nella trama del film si tiri fuori Agrigento, però viene riferito esserci un club dedito a spaccio, attività certamente non legali. Il cui club si chiamerebbe non solo Agrigento e viene utilizzato paro o quello che è il tabellone che si trova nel nostro ufficio turistico ai piedi della nostra Girgenti, cioè del nostro centro storico, grave ancora che viene utilizzato anche il logo del comune con i tre giganti che lo simboleggia. La serie è Power. La serie è Power. Devo ritenere che lo sceneggiatore che sia venuto ad Agrigento per visitare la Valle dei Templi, il nostro centro storico, probabilmente nei suoi scatti fotografici, così dando sfogo alla fantasia, ha utilizzato paro paro questo tabellone e lo ha inserito nella. Ma lei vuol far proprio bloccare la fiction, non è vero? No, io non intendo far bloccare nessuna fiction, non ritengo di avere questo potere, ritengo però che sia necessario che la parte in cui viene citata Agrigento, come quando parliamo di questi temi, cioè l'associazione è facile, l'immagine coordinata in negativo diventa immediata, che quantomeno si togliesse questo tabellone da lì. Ma sindaco, lei dice che negli Stati Uniti se ne accorgono che quello è Agrigento e fanno questo collegamento? No, il tabellone è chiaro, come lei può vedere nelle immagini che ho visto, anche sono state pubblicate dai giornali, a noi è stato segnalato da un cittadino che non vive tra l'altro ad Agrigento, che ha mandato un messaggio indignato, una persona del Nord Italia che non ha radici ad Agrigento e che era venuto visitando la Valle dei Templi, il quale si è sentito in dovere di farlo arrivare al nostro ufficio pubblico di relazioni questa segnalazione. Mannaggia. Vabbè, ma sindaco, ma mi scusi, facciamo l'esempio di Gomorra, no? Gomorra dovrebbe, come dire, Napoli dovrebbe allora... Scampia. Guardi, non c'entra nulla quello che lei sta dicendo. Perché? Napoli, Gomorra non c'entra niente. qui stiamo dicendo una cosa diversa, si utilizza il logo del comune di Agrigento con il tabellone tipico del comune di Agrigento per intestare un club dedito a attività malavitose. Sì, diciamo che effettivamente l'uso dello stemma e dell'uso del logo è tutelato. Come se ci fosse la supervisione della città, del comune di Agrigento su delle attività illecite. Sì. Esattamente. Per carità, ci poteva essere scritto Imperia piuttosto che Milano. È chiaro, è chiaro. Lei è il sindaco di Agrigento, quindi sono certo che il mio collega sindaco di Milano Sala si sarebbe indignato e allo stesso modo avrebbe fatto il mio collega di Imperia. Certo, ma le volevo chiedere, secondo lei questa può essere anche può esserci un aspetto deteriore nell'immagine dell'Italia, quelli che sono i luoghi comuni, no? La Sicilia, mafia, le attività criminali all'estero? Questo è un altro aspetto. Questo credo che in un tempo in cui noi eleviamo sovente gli antieroi ad eroi, no? Lo abbiamo fatto con qualche cinematografia dove abbiamo visto che Riina è diventato anche un eroe. In negativo. Cioè, tutto questo certamente all'Italia non fa bene, non lasciamo perdere la Sicilia, perché poi nel Nord America piuttosto che in Cina non è che fanno la differenza tra Sicilia e Piemonte, parlano dell'Italia. E tutto questo non ci fa bene come paese. E lei ha avuto modo di lamentare questo fatto con qualcuno della dirigenza di Sky? Insomma, esatto, ha parlato con loro. Non è che ti tolgono quelle scene, cioè per questo io ho detto vuol bloccare la fiction, non credo che possano togliere. Possono fare qualcosa di abbastanza semplice. Ma ormai è stata prodotta in America. Ma potranno tagliare forse delle... Possono tagliare quelle frazioni. I fotogrammi, certo. Quel fotogramma da dove si vede... l'indicazione della città, il resto noi non mettiamo becco su niente, anche perché ribadisco non c'è nessun riferimento. Ma lo faranno secondo lei? Giustamente Manera le chiede, le han detto da Sky, lo farà, lo faremo. Il nostro ufficio legale del comune ci dice che ci sono staccati i termini per richiedere il risarcimento anche del danno in sede civile, quindi noi seguiremo tutte le iniziative, ho il dovere di farlo. Com'è? Per Agrigento, va bene. Quello sarebbe buono per le casse di Agrigento, esatto, sindaco. Qualche entrata in più da lasci andare in onda così. Al di là delle casse, sicuramente va bene. Ne ha ragione per come vivono di questi tempi i comuni italiani. Esatto. Però mi accontenterei che togliessero quel fotogramma. Si accontenterebbe di questo, va bene, sindaco. Una cosa noi... o l'altra? No, la ringraziamo perché nel frattempo abbiamo chiamato anche l'avvocato Carlo Rienzi, nostro amico del Codacons. Presidente, ciao, come va? Oui, buongiorno. Ciao Carlo. Perché non è tanto questa la vicenda, ma ci sei venuto in mente perché, come dire, quando si fa anche un film, quando si va al cinema, quando si va in TV, bisogna sempre stare attenti a quello che si manda in onda. No, in questo caso effettivamente il logo di un comune non si può mettere senza l'autorizzazione del comune. Allora noi ci ha incuriosito e ci ha colpito il fatto che in Francia vogliono fare una legge per togliere le scene in cui gli attori fumano. Questa Rienzi piacerà, secondo me. Rienzi, questa si scatena, avrà fatto 800 cause. Settimo cielo sarà, proprio avrà fatto... Sì. Allora, questo è dovuto al fatto che purtroppo fanno la pubblicità occulta, perché se fosse soltanto non è sempre casuale, così, non è sempre a volte non è sempre così, a volte è come dire il no, però fa parte dell'attore che fuma. Le reazioni dello Stato sono dovute a questa pubblicità occulta, perché se ci fosse un fumatore casuale non ci sarebbe problema, invece purtroppo le società che producono sigarette pagano le produzioni per far fare scene agli attori quasi involontari in cui loro prendono, poi negli anni 60 era proprio un uso abituale, prendono il pacchetto, lo mostrano, pigliano la sigaretta, l'accendono con la marca, eccetera eccetera. Ora è chiaro che in una visione estrema è giusto vietare questo in assoluto, cioè il fumo dappertutto, e anche l'attore che fuma, come è stato vietato il fumo nei parchi, come il Papa ha vietato il fumo al Vaticano. Ma a volte è un attore che ma ne so, è la stessa cosa, lì uno lo vieta perché arriva il fumo e si sente il fumo. Vabbè, ma lì chi l'ha detto? È un discorso artistico. Ho capito, ma chi l'ha detto che il fumo è arte? Chi l'ha detto che fumare è arte? No, non è fumare che è arte. Finora è l'ha detto la storia, perché ci sono una quantità di film storia, di quell'immagine con la sigaretta in bocca. Brava, certo, pure Tex Wheeler c'è una sigaretta in bocca. Però non fuma quasi più Tex negli ultimi episodi. Adesso non fuma perché l'abbiamo denunciato. Sì, ma adesso il problema è che è nata questa. Ultimo tra tutti, il Papa di Sorrentino, no, Jude Law, che fuma in Vaticano. Allora, possiamo discutere, ma che serve a caratterizzare il personaggio da un punto di vista proprio così psicologico, umano, non possiamo negarlo. Allora, è veramente utile fare una battaglia contro Jude Law che fuma la sigaretta nel... Ma perché siete abituati a pensare che il fumo sia un modo di vivere e un costume che può essere mostrato. Però un costume. Non siamo abituati, può essere così. Mostrato. Cioè, raccontare un atteggiamento emotivo a momenti di nevrosi. Anche sniffare la coca, potremmo dire che non importa se uno durante non esagerare, un film non esagerare. Se c'è a Gomorra ci saranno delle scene in cui sniffano, se c'è un film su, che ne so, Trainspotting si drogano, no? Altrimenti decidi la coca in un film qualsiasi. Io sono d'accordo con Rienzi, guarda, mi piace questa battaglia di Rienzi contro i mulini a vento, mi piace. Ma non so, che ne so, facciamo un film su Fidel Castro e non gli mettiamo il sigaro in bocca. Cioè, per sollevare i problemi, queste battaglie, non ci illudiamo che riusciamo a eliminare il problema del fumo che fa 80.000 morti all'anno solo in Italia, ma sollevare il problema, far ragionare i giovani, far pensare che è una cosa sbagliata per se stessi, che è una forma di autolesionismo terribile, perché è una delle cause rimovibile, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il fumo è una delle cause di morte che potrebbe essere eliminata volontariamente senza nessun problema, perché però, non è amico mio, però, tu non ci vedi un velo di ipocrisia nella proposta della ministra francese che dice eliminiamo le sigarette dai film? Sì, un po' ce la vedi. Vabbè, pure sarà, tu sarà, tra un esposto e un altro. È una proposta che già dal fatto che voi ne state parlando ha avuto l'utilità di sollevare il problema, far sentire a tutti i vostri ascoltatori che esiste questo problema, che guardare le immagini di fumo può essere diseducativo soprattutto per chi ancora non fuma, per i giovani che possono essere attratti dal fatto di prendere in mano quella sigaretta, e questo porta danno alla loro salute. Ma lei è anche contro le sigarette elettroniche, che poi tra l'altro all'inizio erano piccoline, adesso diventano sempre più grosse, sono dei treni enormi. Mantieni la destra, Rienzi, il navigatore di Rienzi. No, no, dici dove stai andando? Mantieni la destra, mantieni. Il navigatore, se non mi perdo. Ma qual è? No, le sigarette elettroniche. Vedi che è smarrito Rienzi, è smarrito. Possiamo prenderlo a guida. Devi ritrovare la tua le sigarette elettroniche, Rienzi. Anche quelle dai. Non vanno bene. Le sigarette elettroniche, no, le sigarette elettroniche possono essere utili perché possono diminuire a sinistra. La rotonda, la prima. Volete venire con me? Venite, no, non lo so, perché si capisce che Rienzi vuole rispondere, ma in realtà non gliene frega niente di rispondere, non deve seguire la voce del navigatore perché si sta perdendo. Ha detto fammi sentire questo in radio, mantieni la sinistra. Carlo, mantieni la sinistra, almeno tu, Dillo a Renzi, mantieni la sinistra. Almeno tu. Fermiamoci qua. A caso il navigatore. Fermiamoci qua che dobbiamo andare a sentire la borsa critico MDP su questa guida di Rienzi. Carlo Rienzi, presidente del Conacons. I funamboli. Allora, sono le 10:40 minuti, abbiamo voluto richiamare Daniela, la ragazza che la ringraziamo. Daniela, eccoci qui, l'ascoltatrice di prima che ci stava raccontando la sua esperienza in Bosnia, perché ci aveva colpito. Poi Daniela, avevamo dovuto interrompere per il giornale radio, ma ci dicevi che con i tuoi 24 anni sei stata in Bosnia, eravamo rimasti un po' colpiti anche da capire che cosa avevi visto con i tuoi occhi della Bosnia di oggi, soprattutto a Srebrenica. Sì, a Srebrenica tanto silenzio, è una cosa che ti rimane poi impressa, forse è stata l'esperienza più forte della mia vita, perché davvero si respira ancora la stessa aria di sofferenza. C'è un museo che è impressionante, con le foto, i ricordi. In realtà la location è il vecchio capannone dove venivano torturati, abusati le persone della Bosnia, insomma. e rimane questo grande silenzio. Insomma, il silenzio è la cosa che più ti ha colpito. Sì, assolutamente. Non parla nessuno, neanche noi eravamo una classe di quinta superiore, con tutto l'entusiasmo che potevamo avere come adolescenti, eravamo in silenzio, non riuscivamo a dire niente. Insomma, chi ha avuto l'esperienza, per esempio, come io ho fatto, di stare a Yad Vashem, a Gerusalemme, insomma, è chiaro che il silenzio è l'atteggiamento che non è che viene come... non è che viene imposto, è proprio una condizione quasi che ti attanaglia, diciamo. Spontanea. È come se avvolgesse quello che è successo e creasse una sospensione. Ma io ti chiedevo prima, Daniela, quando poi abbiamo dovuto concludere, se l'atmosfera che hai sentito durante il viaggio era tesa, cioè se nei paesi dell'ex Jugoslavia si sente ancora un'atmosfera, secondo te, conflittuale? Quando sono andata io, sì. Io la sentivo soprattutto in alcune parti della città, che erano le parti meno turistiche, diciamo. Non è che fosse poi Sarajevo una città così turistica, però c'è una parte del centro storico che è stata rimodernata, quindi ci sono i negozi che troviamo anche a Milano, ma usciti da quella parte lì io avvertivo tensione. Ho conosciuto anche un comandante delle forze proprio di Sarajevo, e ci ha portato nei posti da dove sparavano, da dove si appostavano per sparare in città. Davvero non riesco neanche a descriverlo. No, ma è chiaro, appena ho sentito che si parlava della guerra dei Balcani ho chiamato, però in realtà certo. Si fa fatica a elaborare. Però Daniela, sì, ci hai raccontato davvero qualcosa di più, e ti ringraziamo perché il discorso è rimasto munco e ci tenevamo a concludere questa tua esperienza. Allora è il momento in cui i nostri furbi si radunano, possono raccontare a funamboli @radio24.it quando hanno fatto i furbi. Com'è? Si radunano. Noi... Il raduno dei furbi non è le brigate furbe ci sono adesso che arrivano. Defurbizziamoci. Giuseppe, buongiorno. Quanti furbi hai intorno a te? No, nessuno. Buongiorno. Mi dispiace parlare dopo la ragazza della Bosnia di cose futili, però no, siamo così, è giusto, la vita è tutto, si tiene tutto nella vita, è tutto un cambio di registro. Mi ha fatto proprio pena. Comunque, allora, io premetto che c'ho un negozio di acquari, sì, e faccio importazione diretta di pesci tropicali. Nel 94 chiese al Ministero dell'Agricoltura dello Sri Lanka, vecchia isola di Ceylon, di mandarmi la lista di esportatori di pesci tropicali. Allora si usavano i fax, non c'erano le mail, non c'erano, e mi rispose il governo dello Sri Lanka, che in inglese, dicendo che spettabile ministero, riferendosi a me. Come spettabile ministero? È un attimo, uno si ritrova al ministero, eh? Io vedo già puzza di furbata. Già in Gregor Samsa si è svegliato scarafaggio, tu ti addormenti e ti svegli il ministero. Che dico? No, non per colpa mia. No, comunque, certo. Spettabile ministero. Magari sono gentili, in Sri Lanka si rivolgono a tutti così. Chiunque scrive spettabile ministero. E il che ministero dice? Che è in te. Sì. Saremmo gradi di invitarla nel nostro paese a conoscere direttamente le ditte di lei interesse, di suo interesse. Sì. E invitandola nel nostro paese. Ma stupendo. Tu hai fatto una vacanza gratis. Ha portato anche un codazzo di sottosegretari. Avevo capito che c'era l'errore, avevano frainteso. Sì. Io rispondo, dice volentieri. Certo, volentieri. Volentieri, sarei grato di visitare le vostre ditte, il vostro paese, per entrare in un rapporto. Per farmi un'idea più chiara circa la qualità del pesce tropicale. Entrare in un rapporto commerciale. Mi vedo rispondere sempre tramite fax. Le manderemo, se ci manda l'indirizzo, due biglietti per lei e un'altra persona, compagna di portavoce. Il portavoce. Meno un portavoce non lo porti, e porta la voce. Le manderemo, insomma, taglio corto, dopo una settimana, due massimo, ma arrivano questi biglietti via posta, due biglietti aerei con l'Air Lanka, non so se esiste ancora, l'Air Lanka, e per due persone. Io mi premunisco di 3-4 mila euro di travel check, perché ho detto, se scoprono il trucco qui mi fanno siamo pagare. Rovinati stando qui, fuori qui mi ci tengono in Sri Lanka. Ma infatti scusami, tu sei incautamente partito, perché se questi si fossero accorti e avessero capito, poi che facevano? Certo, infatti mi sono procurato dei travel check, travel check ho risolto. È andata bene? Risolto, è andata bene? Tanti, È andata bene? Cioè hanno... Mi sono fatto un mese di vacanza. Un mese? Ma aspetti, un mese, erano 3 settimane. E mi sono trovato all'aeroporto con il autista, traduttore, no, traduttore, macchina con aria condizionata. Addirittura mi sono visitato tutti i posti dello Sri Lanka, Candy Yale, il parco nazionale. E lei voleva importare solo 4 no. pesci. Ma con tutti che ti trattavano come se fosse arrivato praticamente l'imperatore. Ma guardi, una cosa. Mi sono fatto 3 giorni a Lilton, a Gelsissi, no, a Colombo, una cosa, tutto pagato. Un lusso che io non mi rendevo conto. Fermati qua, Giuseppe. Abbiamo già capito, ministro Giuseppe, sei stato assolutamente defurbizzato. È una roba. E sai che delusione per loro quando hanno visto che l'ordine era veramente minimale. Hanno detto, guarda che cialtroni questi, sì, questi ministri italiani. Avranno pensato che la qualità dei loro pesci era scarsissima. Avranno avuto una crisi, anzi, no? No, Giuseppe, sei stato simpaticissimo. Dai, se volete defurbizzarvi, funamboli @radio24.it, raccontateci quando avete fatto i furbetti. Ma dei pesci tropicali per me, no? No, infatti, adesso vediamo. A casa, un bel acquario. I funamboli. Ai signori veneti che chiedono l'autonomia, vediamo se autonomamente restituiscono tutti i soldi che abbiamo dovuto mettere noi contribuenti italiani nelle loro banche. Grazie. Allora, i nostri ascoltatori, sentine un altro. No, Veronica, la sento preoccupata, non si preoccupi, che al nord riusciamo ad organizzarci. A differenza di Roma o tutte le altre città del sud, per favore, non vi preoccupate del nord, che qualsiasi cambiamento avvenga riusciamo a fare qualcosa. Eccola qua. Secondo me anche al sud ce la fanno, così a intuito. Ma è più organizzati al nord, non capisco. È arrivato Battista, eccolo qua. D'angolo del populista. Che bella sigla che abbiamo fatto. Anche che brutta sigla, no? L'avete fatta anche altre panno. Non mi piace. Azzeccassimo una. Non sono soddisfatto anche da questa sigla, no? No, L'ha fatta Peter Bescapè, guardi. Sembra quella degli anni 70, tipo sta schiaccio, no? Un po' sì, effettivamente. Sì, è vero. Vabbè. Battista, come sta? Ma guarda, sono deluso, perché in Italia non si risolve mai i problemi, Mina. E il problema vero è extracomunitari dell'Italia. Ancora. Come quello della Corea, come si chiama? Kim Bizin, no? Quello che tira i missili. Quello è extracomunitario, no? Rispetto agli italiani, è extracomunitario Kim Bizin, capisci, Mina? Anche al gentile là. Se il capo della Corea non era extracomunitario, era uno dei riccioni, non tirava i missili, al massimo tirava su qualche albergo, capisci? È per quello che non va bene. E tira i missili che finiscono nel mare, ammazza i pesci, e gli animalisti italiani non dicono niente. Invece in Italia, se tiri il collo a un'orata, hai le proteste tutti i vegani, no? Anche la signora Gentile che piace i vegani. I vegani... sei vegana, no? Immagino, Mina, e anche la Gentile. Io no. Vegani non capiscono più niente, a forza di mangiare erba ormai ragionano come i vitelli, e poi a forza di mangiare fibre tolgono tempo al lavoro, perché passa tutta la giornata in bagno a forza di mangiare fibre. Perciò in Corea bisogna togliere Kim Jim e mettere al suo posto un albergatore di riccione, che poi almeno in cucina al posto dei cani fritti mette le piadine. Vedi che anche i coreani smettono di aver colorito giallognolo, che è malati, no? Gli asiatici vengono qui in Italia e vogliono imporre i fritti anche agli italiani per farci ammalare al fegato. Io non ho niente contro i fritti, ma se Dio voleva che c'erano i fritti nel paradiso terrestre, non metteva la mela, metteva un involtino primavera, capisci? Invece il creatore ha messo la mela e la foglia di fico perché è a favore della dieta mediterranea e non della dieta extracomunitaria, Mina! Ecco. Guarda anche l'ultima cena, nell'ultima cena si spezza il pane, non spezza i ravioli al vapore, capisci? Difendiamo la tradizione, invece i cinesi mi vogliono far mangiare le alghe come i pesci, ma io sono uomo, non sono merluzzo, capisci? Mina! Capito. E poi farmi mangiare vogliono farmi usare le bacchette, non va bene bacchette per mangiare, prova tu a mangiare il brodo con le bacchette. bacchette. Non si tira su niente, Mina. In tutto il mondo c'è le posate che sono più comode e loro vogliono farmi usare le bacchette perché è retrogradi. Ma non c'è solo i gialli, c'è anche fuori la stazione centrale di Milano, è pieno di negri che non sembra stare a Milano, sembra stare nella capitale della negrizia. Stanno lì a ciondolare, a vendere la droga, a portare via il lavoro ai spacciatori italiani. Io dico che se sei italiano e vuoi drogarti, devi comprare droga italiana della 'Ndrangheta, perché se la 'Ndrangheta fallisce, fallisce anche uno degli ultimi marchi di successo italiani, e dobbiamo vendere anche la 'Ndrangheta ai cinesi. E a me non piacciono i cinesi, perché quando vado a fare il massaggio romantico solidono, solidono, ma non mi fa mai lo sconto. Ma devo dire che la dose di populismo, insomma, va crescendo. Devo dire che andiamo bene a forza di annaffiarla. Oggi ce l'aveva con i cinesi, oggi però, cinesi, nonostante i negri, ma oggi i cinesi. Manteniamo erano... i marchi italiani come quello della 'Ndrangheta, la mafia, ma la camorra. Diamo spazio ai marchi del successo italiani, non alla mafia cinese. Ma Battista, lei non si annette al Friuli Venezia Giulia? Infatti. Anche stiamo facendo, no? Perché andiamo verso Mitteleuropa, anche che è più lontano anche dal meridione. È più, più lontano. L'importante è allontanarsi dal meridione. In fuga dal meridione. Un bel giorno, Battista, Veronica Gentili, una bella foto, un bel. Bello, sì. A me piacerebbe vedere anche un faccia a faccia, come quando si fanno incontrare due popoli in guerra. Esatto. No? Comunque, il nostro Leonardo Manera, devo dire che oggi Veronica Gentili ha rimediato con Averò che te serve un pettine. Uno ski pass forse a Sappada. Adesso dobbiamo richiamare il sindaco. Il sindaco però non ha risposto subito dicendo certo, signora Gentili, la aspettiamo qui. Ma non era in delegazione più in diretta, o nel suo portavoce. Ma no. Non fare così, non era tu più fai in diretta, il portavoce. Quindi. Forse dei pesci tropicali. Adesso dobbiamo ricontattare il ministro prima che ci ha. I pesci tropicali come arrivano in Italia? Via mare? O? Non so. Via nuotando? No, a piedi. Di solito avevamo, a piedi. Avevamo Giuseppe. Però l'acquario con il pesce tropicale a me piace. Ti piace, ti piace a me, questo. A me piace. Se volete mandare qualcosa, o meglio proporre, no, non mandate niente. Proporre è un gioco, è un gioco. C'è gente. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La prima una bisola, la seconda con due B. Babbaria. C'è gente Averò. Che polemizza su Averò che te serve. Ma lasciali di polemizzare. Averò che te serve. Scriveteci a funamboli@radio24.it e fate le vostre proposte. Ci vediamo domani. Anzi, fate ci sentiamo. Le vostre proposte, amici. Andremo avanti.